Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. La Cotesia Margini Ventris, Chiara, ha questa voce. Certamente. È un piccolo parassita, arriva ai 3 mm di lunghezza al massimo, è un parassita delle farfalle notturne come l'Autografa precationis, per esempio. E c'è anche la pseudoplusia includens, no? Sai? Certo, anche la pseudoplusia, l'Eliotis virescens. E poi c'è tutto il filone delle scotoritra, la scotoritra cariposis, l'eridania, la frugiperda. Benvenuti a Möbius, ascoltiamo i titoli e poi iniziamo. Nella savana ci vogliono le formiche per tenere a bada gli elefanti. Nella Russia del nuovo millennio, tante basi per andare nello spazio. Ed è anche un bel business. La ricerca mondiale sulla fotonica si riunisce a Torino. Gli scienziati italiani sono bravi, ma lavorano per aziende straniere. Il multitasking, ovvero la capacità di svolgere più cose contemporaneamente, tiene sveglio il cervello o ci rende meno creativi? Una nuova risorsa per l'agricoltura, la Posidonia spiaggiata, un progetto di riciclo del CNR di Bari. E ora, Federico, ascoltiamo delle formiche. Delle formiche. E sono delle formiche. Sembrano anche dei delfini, ma non fa niente, assicuriamo che sono delle formiche. Ma quanto peserà più o meno una formica? Io credo neanche un grammo. Secondo me è una frazione molto piccola di grammo. E quante formiche ci vorranno per fare un elefante? Cioè, quanto pesa un elefante? Lo chiediamo al nostro ospite. Stefano Cannici, buonasera. Buonasera. Zoologo del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica dell'Università di Firenze. Esatto. E anche savanologo. Sì. Esatto, ecco, sì. delle formazioni costiere keniane e tanzaniane. Sì. Ah, in particolare quelle. Sì. E difatti noi partiamo da una ricerca che si è svolta in quella zona e che mette in relazione, sì, no, le formiche e gli elefanti. Allora, quanto pesa una formica, Cannici? Dipende dalle formiche, ci sono anche dei campioni mondiali di peso nelle formiche, però in questo caso, in questo studio si parla di crematogaste, che sono conosciute anche da noi in Italia, sono dei congeneri, sono presenti, non si arriva ai 10 mg. Quindi pochissimo. Minuscole. Però insomma sembrerebbe che siano molto importanti, abbiano un ruolo piuttosto importante nell'ecosistema della savana e soprattutto in relazione agli elefanti e forse anche alle giraffe. Sì, direi che addirittura sono contro la savana, perché un buon sistema di difesa messo a punto da queste formiche permette alla savana di diventare una vera e propria foresta coperta. Com'è che avviene il tutto, insomma? Vabbè, perché? È nota ormai l'esistenza di queste mirmecofite, cioè queste varie tipi di piante che decide, è un termine forte per una pianta, però che ha coevoluto una simbiosi con le formiche, nel senso che letteralmente danno da mangiare e da dormire alle formiche. E in cambio cosa riceve la pianta? Difesa. Ora, effettivamente la difesa dagli elefanti è un po' un record in questo caso, però è vero che il fine ultimo delle mirmecofite può essere difese contro un ampio set di parassiti della pianta. Siccome non penso che le formiche, non so, prendano per il collo l'elefante e lo buttino per terra, cos'è che gli fanno? Con le formiche non si sa mai. È vero, si mettono insieme. Le crematogastere in questo caso sono animali, cioè hanno delle piccole vescicole nella parte posteriore del corpo che secernono quindi acido formico, che è un acido a pH 2,5, un acido molto forte che disturba chiunque si avvicini. E altre formiche, non di questo genere ma di altri generi presenti su queste acacie, mordono, altre formiche ancora possono pungere, non sono in questo caso, ma sì. E comunque tutto questo naturalmente dà un grandissimo fastidio agli animali. La seconda cosa che fanno è che sono poco palatabili, cioè mangiare un ramo di una acacia piena di formiche, beh, insomma, non è carino. Non si digeriscono un granché. E poi pungono alcune specie, vero? Proprio sono fastidiose dal punto di vista proprio del contatto. Ma sì, alcune pungono, hanno un vero e proprio, beh, sono parenti strette delle vespe e delle api, di conseguenza alcune di loro hanno un vero e proprio pungiglione. Ma insomma anche il morso di una formica. Beh, pensate che ci sono, dove lavoro io, ci sono delle insomma delle etnie che usano alcune formiche come punti di sutura, si fanno mordere attraverso le rime della ferita e staccano la testa della formica che rimane piantata lì e gli tiene chiusa la ferita, insomma la potenza di un morso di formica può essere... Però, quindi hanno una capacità di resistenza anche nel tempo, insomma, una volta chiuse le mandibole, fortissime. Sì, assolutamente, sono questi muscoli tonici, quindi mantengono la potenza anche per lungo periodo, insomma, sono fatti diversi dai nostri, possono senza spreco di energia mantenere una posizione, mantenere quindi la potenza della chiusura, sì. Addirittura è possibile che queste formichine entrino nelle narici degli animali e quindi diano ulteriormente fastidio. Degli elefanti, anche delle giraffe, so. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, ci sono dei generi di formica, la formica, le cosiddette formiche guerriere in Africa, che sono famose perché hanno una fase migratrice, si muovono a milioni e attaccano tutto quello che trovano. E quando dico tutto quello che trovano, io ho trovato galline completamente spolpate, anche granchi riescono addirittura a forare le parti, le articolazioni delle zampe dei granchi, entrare dentro e mangiarli dall'interno. Sono animali, cioè, diciamo che io non sono un entomologo, ma per chi studia insetti sociali non è una sorpresa che qualche migliaio di formiche possa far passare la voglia a un elefante di avvicinarsi a una pianta. Ecco. E questo recente studio, appunto, che è stato pubblicato su Current Biology, su questo rapporto tra gli elefanti, le formiche e le acacie, appunto, mettono in evidenza questa cosa. Però se tutte le acacie si facessero furbe e adottassero queste formiche, per gli elefanti non ci sarebbe più molta... Sarebbero qui, dovrebbero venire qui da noi. È vero, ci sono vari aspetti che però vanno considerati. Intanto che allevare delle formiche è costoso, perché queste piante, in particolare questa acacia di cui parla questo lavoro, fornisce anche cibo alle formiche. Mm-hmm. Fa del polline e del nettare in soprannumero proprio per mantenere le formiche. La cosa non è semplice, insomma, ci vuole più di energia per mantenerle. Ora, in questo caso, per esempio, questa acacia è una acacia estremamente particolare, vive in una zona di suoli vulcanici sulla quale è difficile vivere, ma una volta che si è adattati a questo c'è un surplus di minerali, un surplus di nutrienti per questa acacia. Proprio per questo questa acacia è in grado di produrre una maggior quantità di cibo che può essere gestito dalle formiche. Insomma, non, niente si fa per niente in natura, bisogna avere abbastanza energia per poter campare le formiche, altrimenti le formiche prendono e vanno via, insomma. Meno male, dai, gli elefanti sono salvi. Sì, ora bisogna vedere per chi, meno male. Per la savana. In natura è tutto così, no? Sì, tutto funziona e tutto è contraddittorio. Fra le 3-4 tonnellate, no, il peso di un elefante. Fra le 3-4 tonnellate, ma poi la cosa che più colpisce di un elefante quando uno ci lavora un attimo è che è un ecosistema vivente, anche solamente sui suoi escrementi ci sarà una biodiversità di 40-50 tipi di insetti addosso a loro, le bufaghe, insomma, è chiaro che si sta parlando di un ecosistema che cammina, e poi di una specie, di un'intelligenza, di una, insomma, di un fascino. A me una cosa che ha colpito tantissimo è che, nonostante siano 4 tonnellate, sono di un'agilità e silenziosissimi. Sono veramente strepitosi da osservare. Come colpiscono certi atteggiamenti, oserei dire dolci, anche se chiaro nel mio lavoro non si antropizza mai l'animale, sì. Ma che certe madri hanno con i piccoli, proprio il modo con cui muovono la proboscide, fa proprio pensare a carezze, sì, sono incredibili, sì. Però guardate che il fascino delle formiche è incredibile, eh? Torniamo su quello, insomma, vorrei un attimo, insomma, come dire, sponsorizzare anche animali piccoli come è vero. questi superorganismi che sono poi in realtà sono queste comunità di formiche in cui ognuna ha un suo compito, in cui velocissimamente si combatte tutte insieme, appunto addirittura contro un elefante, insomma hanno un fascino tutto loro. Pensiamo a un branco di elefanti organizzato come uno sciame di formiche, sarebbe un disastro. Non saremmo qui a trasmettere. Ecco. Sì, appunto, sarebbero loro a trasmettere e noi saremmo... Ad ascoltare! A tirar fuori un po' di nettare dalle acacie. Non saremmo nemmeno evoluti a quel punto, saremmo una specie che sta cercando di difendersi dalle formiche nella savana. D'altronde siamo nati lì, esattamente lì, noi, quindi... Bene, grazie Cannici, ci sentiamo la prossima volta per un altro viaggio nella savana. Speriamo, bene, grazie a voi. Buon lavoro! Arrivederci, buonasera. Sì. Ascolta questo suono adesso, Chiara. Adesso... Vediamo cosa succede sul traffico e poi lo usiamo per il nostro quiz. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qualcosa vi ho fatto già sentire, siamo arrivati al nostro gioco, il quiz. Allora, vi faccio risentire il suono che avete già sentito prima, ascoltate. Allora, parlavamo di animali, la prima possibilità è che sia un gibbone crestato, una scimmia, quindi ci scriverete scimmia. Oppure restiamo nel mondo animale, ma un volatile è l'ospite reale, una specie di tacchino delle Ande, ci scriverete tacchino. Ma poi perché parlare solo di animali? Infatti il suono che avete sentito è il segnale d'allarme utilizzato da una centrifuga per usi biomedicali quando si supera il numero di giri massimo consentito. E ci scriverete allarme sempre con il solito SMS al numero 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Il bambino filosofo di Alison Gopnik, edito da Bollati Boringhieri, un testo di cui parleremo però nella prossima puntata in collaborazione con IBS.it. Gigi Donelli, sono contento che tu sia tornato qua in studio. Grazie. Era un po' che non c'eri. Gigi Donelli cura per Radio 24 da sempre tutto ciò che è spazio, sonde, satelliti, missioni. So che sei appena rientrato da un centro dell'Agenzia Spaziale Europea. Sì, in questo caso è il centro effettivamente ESTEC di Noordwijk in Olanda, un posto molto bello, proprio sulle grandi spiagge ventose, anzi ventosissime, vi posso assicurare. In quell'occasione abbiamo parlato, ho ascoltato l'avvio del progetto della grande missione di Paolo Nespoli, 14 dicembre, per adesso naturalmente, perché le date dei lanci poi cambiano, dalla Russia, direzione Stazione Spaziale Internazionale. Sarà il primo italiano a trascorrere 6 mesi nello spazio. Il primo italiano a stare tanto nello spazio, però noi nei titoli abbiamo detto Russia, basi spaziali, si è aperta questa situazione abbastanza singolare, e cioè che si parte per lo spazio, si parte dalla Russia, insomma. Se lo spazio si parte dalla Russia, lo si fa sempre di più in questi anni. Naturalmente tutto questo si incrocia con la storia del progetto Shuttle, del programma Shuttle, nato appunto nel 1980 e ormai nella sua fase conclusiva, un volo accertato forse due e poi si finisce. Naturalmente i russi, che ancora qualche anno fa sembravano una categoria di spaziali in estinzione, in realtà vivono una primavera formidabile, perché i mezzi vanno regolarmente. La Soyuz vola 4 volte l'anno con il carico umano, perché poi ci sono tutti i voli not manned o unmanned, e tutto questo va avanti molto bene, anche se c'è una sorta di vizio di fondo. Da quando sono nati gli stati cosiddetti CSI, gli stati intorno all'Unione Sovietica, la Russia si trova ad avere la sua base principale fuori dal territorio nazionale. Esattamente dove? In Kazakistan, quindi in un luogo che si chiama Baikonur. Anche quella è una storia affascinante. Baikonur era un nome fittizio di un paese distante 200 chilometri che serviva a mascherare la posizione di questo luogo formidabile nella steppa del Kazakistan. Siamo a circa 500 chilometri dai confini russi. Era Unione Sovietica, la storia l'ha messo in un altro paese. Ma Baikonur, tra l'altro, è il luogo di lancio forse più famoso, più vecchio, no? Assolutamente. Baikonur è la storia, assieme anche il canale dei lanci spaziali, tant'è che ancora visitando questo luogo formidabile si visita la casetta di Gagarin, dei grandi che insieme mettevano a punto i razzi prima del lancio. Ecco, ma com'è che allora c'è questa relazione? Perché la relazione tra Russia e vicini non è di solito molto fluida, lì invece hanno un buon accordo. Beh, allora l'accordo, naturalmente, quando i fatti sono avvenuti, la Russia si è preoccupata di chiudere un accordo immediatamente con i vicini di Astana, dunque capitale del Kazakistan. L'accordo è stato stabilito con un contratto di affitto attualmente che termina nel 2050. È stata fissata anche una cifra di 15 milioni di dollari l'anno, che allora sembrava un po' strangolare in qualche modo i russi. In realtà vediamo che è stato un affarone. Che un bel affarone. Però allora cosa succede? Che per esempio europei e americani dovranno dare dei soldi ai russi per lanciare le proprie cose, e i russi dovranno dare dei soldi ai kazaki. Assolutamente. Solo che mentre i russi danno un affitto appunto di circa 15 milioni, solo quest'anno gli americani ne danno 250 per mandare i propri astronauti. Quindi in questo senso l'affare c'è. E naturalmente non viaggiano solo gli americani, anzi. Allora, però non c'è solo Baikonur, ci sono altre basi. Intanto si pensa al futuro. Baikonur in realtà, a parte sconvolgimenti particolari, continuerà la sua attività, ma naturalmente i russi si sono posti il problema: se dovesse accadere qualcosa in Kazakistan, noi dove li lanciamo questi razzi? E naturalmente hanno guardato un po' intorno nello sterminato spazio russo per vedere che non sono proprio a corto di poligoni. La guerra fredda ha lasciato un'eredità di lanciatori di SS 18, 19, 20, insomma i missili intercontinentali che poi sono l'essenza del lancio spaziale. Morale, ne hanno identificato uno immediatamente nel nord, in un posto che si chiama Plesetsk, nell'oblast di Arkhangelsk, che però ha il difetto di essere per 6 mesi l'anno a 20 sotto zero, con una serie di implicazioni. Cercavano qualcosa di veramente alternativo a Baikonur, l'hanno individuato proprio pochi giorni fa, si chiamerà Vostochny, l'orientale, quindi da Vostok, oriente in russo. Vostochny è una base che attualmente appunto praticamente in disuso di lanciatori balistici, che diventerà la futura città dello spazio dei russi, un luogo molto lontano, stiamo parlando di migliaia di chilometri da Mosca. Per chi ha ricordi cinematografici, sono i luoghi di Dersu-Zala, sono i luoghi all'estremo confine orientale della Russia, quindi a pochi passi dalla Cina. C'erano le tigri lì? Assolutamente sì, e infatti siamo ai confini della taiga, siamo in una zona di passaggio tra la taiga, appunto, e quella che diventa la steppa della Manciuria, come la chiamano i cinesi, o come la chiamavano almeno una volta, una zona di confine estremamente remota, estremamente segreta. Non dimentichiamo che proprio da quelle parti nel 68 fu combattuta una breve ma cruenta guerra tra Unione Sovietica e Cina. Ma c'è così tanta roba da lanciare allora per pensare a un programma che utilizzerà 3 basi di lancio? Beh sì, ce n'è tanta e probabilmente ce ne sarà anche di più. Insomma, naturalmente io non ho la boccia di cristallo, ma vediamo i fatti. Basta guardare l'elenco, il programma di lanci internazionali, ce ne sono molti, non sono quotidiani, ma in un mese ce ne sono ormai una media di 4-5. E quindi sono importanti. Si lancia naturalmente uomini talvolta, ma soprattutto satelliti, carichi. Pensiamo che ogni volta che mandiamo degli uomini alla Stazione Spaziale Internazionale bisogna poi mandargli le provviste. Sono sostanzialmente 6 kg di acqua e cibo, 6 kg cada uno al giorno. Non viaggiano con gli astronauti, allora ci sono le Progress, che sono le navicelle dedicate al carico. Insomma, ci sono molti più voli di quanto in realtà magari non si veda sui telegiornali. E al di fuori della Russia, da dove lanciamo? Beh, al di fuori della Russia naturalmente c'è Cape Canaveral come luogo non solo storico ma di sostanza. Adesso stiamo parlando della fine del grande programma Shuttle, ma intanto già emergono i programmi privati. Pochi giorni fa SpaceX, il capo e proprietario della società appunto SpaceX, che è il miliardario sudafricano Elon Musk, ha portato i suoi razzi, il Falcon 9, a Cape Canaveral. In questo modo ha ottenuto un'investitura sul fatto, insomma, è stato un messaggio, come dire, qui stiamo arrivando e l'intenzione è, possibilmente anche a breve, lanciare. Dove altro si lancia? Si lancia dall'India, zona di Madras, il grande centro spaziale indiano, si lancia dalla Cina, naturalmente, sono già due i poligoni attivi, e poi l'Europa, insomma, l'Europa con Kourou, che è il poligono appunto europeo sull'equatore, quindi nella Guyana francese, ecco, da dove peraltro cominceranno anche a lanciare i russi con la loro Soyuz. Insomma, c'è molto movimento, e poi c'è il Giappone, insomma, non mancano i luoghi. Ciao Gigi, ci risentiamo per Nespoli in orbita? Assolutamente, grazie a te, a presto. Grazie. Sarebbe meraviglioso, non dico sempre, ma anche una volta ogni tanto, poter tornare indietro nel tempo per entrare in contatto con momenti passati di secoli fa. Sarebbe bello anche se fosse concesso non per i grandi eventi della storia, ma solo per piccoli fatti. Se fosse possibile, allora, sarebbe bello tornare in quel momento in cui un uomo che visse 4 secoli fa, in quel villaggio peruviano ora chiamato Magdalena de Cayo Vejo, aveva fra le mani, quest'uomo, quel foglietto di carta che Jeffrey Kilter e il suo gruppo di ricerca, tutti archeologi della Harvard University, hanno trovato fra le rovine di un'antica chiesa. Sul foglietto ci sono dei numeri scritti con i segni arabi, ovvero quelli che noi usiamo comunemente. A fianco di questi numeri troviamo scritto il nome in lingua spagnola. Quindi, dove c'è il numero 2, troviamo di fianco dos, dove c'è il 3, troviamo scritto tres, e alla via così. Ad un certo punto la lista contiene anche delle decine, 10, 20 e poi anche un 100. Ma il fatto sorprendente è che su quel foglietto, insieme ai nomi in spagnolo, appaiono anche delle altre parole che non sappiamo leggere. Meglio, delle lettere si vedono una dietro l'altra, ma quelle parole non appartengono ad alcun linguaggio oggi parlato o scritto. È noto che in quelle zone del Sud America si parlava molto il Quechua, ancora oggi praticato. Sappiamo che anche altre 2 lingue erano diffuse, il Kingnam e il Pescadora, quest'ultimo appunto parlato dalle popolazioni della costa dedite alla pesca. E queste sono 2 lingue con relativa scrittura estinte. Anzi, non si sa nemmeno se il Kingnam e il Pescadora non fossero la stessa lingua, chiamata diversamente in 2 zone del paese. Su quel piccolo foglietto è forse presente una piccolissima traccia di questi suoni scomparsi secoli fa. Difficile dirlo. Molto difficile. Bisognerebbe tornare indietro nel tempo e chiederlo a chi su quel foglietto forse stava prendendo nota, chissà, di quanti pesci aveva pescato, oppure dei giorni che mancavano alla data di un matrimonio. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Si apre lunedì a Torino la conferenza mondiale di fotonica. Ne parliamo con Fabio Neri. Buonasera Neri. Buonasera. Del Politecnico di Torino, esattamente con quali funzioni anche di ricerca lei ha lì al Poli? Sì, io sono nel Dipartimento di Elettronica al Politecnico di Torino. Uh-huh. E mi occupo di reti di telecomunicazioni con un'attenzione particolare per reti in tecnologie ottiche e architetture di commutazione. Senta Neri, la fotonica è qualcosa, è una scienza che probabilmente già adesso, ma insomma il nostro futuro lo modellerà profondamente. Possiamo in pochi minuti descrivere di che cosa si tratta? Sì, le comunicazioni ottiche combinano 2 proprietà interessanti della luce e delle fibre ottiche. Allora, la luce rispetto alla corrente, diciamo, sì, che normalmente utilizziamo sui cavi metallici, al vantaggio di non avere massa, cioè di non avere corpo, e quindi di riuscire a propagarsi molto meglio all'interno di un mezzo trasmissivo. Sì. Diciamo che incontra meno ostacoli, essendo anima e non corpo, se vogliamo. Sì. Quindi riusciamo a coprire distanze molto superiori quando trasmettiamo un raggio luminoso rispetto a quando mandiamo una corrente su un filo elettrico. Sì. Questo si combina con le proprietà della fibra. La fibra è un cappello di vetro sostanzialmente, quindi un filo molto sottile di vetro, estremamente trasparente, e le proprietà che dicevo prima della luce, combinate con la purezza del vetro di cui le fibre sono costruite, mi permette di avere delle attenuazioni della luce all'interno della fibra estremamente ridotte. Per dare un'idea, la potenza della luce che viene iniettata in una fibra ottica si dimezza soltanto dopo aver percorso 10 km di distanza, che è tantissimo. L'altra proprietà interessante della fibra ottica è quella di permettere di inviare su una fibra degli impulsi luminosi di durata estremamente breve, quindi mandare dell'informazione che può variare molto velocemente. E questo fa sì che una trasmissione in fibra ottica, per la bassa attenuazione e per la velocità molto elevata, mi consente di trasportare a grandi distanze grandi quantità di informazione. Ecco, ma Neri, si dimezza dopo 10 km, lei diceva, rispetto invece ai sistemi tradizionali, lì abbiamo dei dimezzamenti? Abbiamo delle attenuazioni equivalenti dopo 10 metri. E sì, un altro tre ordini di grandezza ce l'abbiamo sulle velocità di trasmissione. Quindi globalmente una fibra è in grado di trasportare, rispetto a distanza e numero di bit trasportati, qualcosa tipo 1 milione di volte più informazione rispetto a un cavo metallico. Perché quello che dobbiamo dire è che l'informazione che noi oggi facciamo viaggiare, per esempio telefonando su un cavo metallico, può assolutamente essere trasportata anche all'interno di una fibra ottica con un rendimento tremendamente superiore. Questo è vero. E questo ha fatto sì che le comunicazioni ottiche siano diventate un elemento fondamentale nelle moderne reti di telecomunicazioni, con delle conseguenze interessanti, per cui il costo delle infrastrutture di telecomunicazione è in continua decrescita. Questo vuol dire che noi possiamo trasferire grosse quantità di informazione su scala globale. Questo fa sì che la posizione geografica dei contenuti diventi irrilevante. Irrilevante. Quindi noi il data center da cui andiamo a leggere le pagine web che vediamo sul nostro PC magari si trova, che ne so, in Islanda, perché in Islanda c'è energia elettrica che costa di meno. Cioè noi potremmo vedere in una sala di una nostra città italiana un film che ci arriva però dal Canada. Di sicuro, perché il trasporto diventa trascurabile, va bene? Quindi diventa conveniente in pratica tenere i contenuti dove costa meno tenerli, quindi per esempio vicino alle fonti energetiche o sicuramente fuori dai grossi centri urbani dove lo stesso real estate è molto oneroso, no? Quindi conviene tenere i contenuti lontano perché il trasporto costa poco. Senta Neri, com'è che si fa ricerca in Italia sulla fotonica? La si fa bene? Allora, stavamo parlando prima di una conferenza che comincia lunedì a Torino, e una conferenza di livello mondiale molto ben rappresentata, ci saranno 1 migliaio di ricercatori che vengono da tutto il mondo. Allora, in quel contesto lì la ricerca italiana si colloca molto bene, diciamo attorno al 15% dei lavori sottomessi alla conferenza erano di origine italiana, c'è una forte rappresentanza italiana, e non perché siamo in Italia. Questa conferenza gira per l'Europa ogni anno. Quindi a livello di ricerca noi abbiamo sicuramente una posizione riconosciuta, una buona reputazione a livello mondiale. Siamo un po' più malmesso, ahimè, sul fronte industriale, nel senso che abbiamo… Lavorate molto di più per aziende straniere. Allora sì, noi vendiamo la nostra conoscenza principalmente ad aziende straniere, è un ritornello già sentito, però sovente i nostri giovani in questo settore vanno a trovare opportunità di lavoro per loro gratificanti all'estero. E le manifatturiere nel settore tecnologico, non solo della fotonica, delle nuove tecnologie in generale in Italia, sono sempre di meno. Abbiamo alcune poche multinazionali che hanno delle succursali in Italia, però dobbiamo riconoscere che il nostro paese ha investito e investe poco in aziende in alto contenuto tecnologico. In breve io le chiedo, cioè potremmo effettivamente fare di più? Sicuramente, allora sicuramente bisognerebbe investire di più Sicuramente nelle infrastrutture, perché le infrastrutture di telecomunicazione, non parlo di strade e buchi nelle montagne, ma le infrastrutture di telecomunicazione ormai sono un ingrediente fondamentale per essere competitivi a livello globale e dovremmo riuscire a capire che la fibra ottica che ci arriva in casa non è un lusso, ma una necessità, come la luce, come l'acqua, come la fognatura. Grazie Neri e auguri per il congresso. Grazie mille, arrivederci. Per il prossimo argomento ho già collegata con il nostro studio Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Barbara, cosa stai facendo? Ah sì, eccomi. Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Veramente, guarda che è con me che devi andare in onda. Poi non è pomeriggio. Ma questa Barbara è una chiamata su Skype. Sì, scusate, solo un attimo. Mi chiamano su Skype e gli dico che sono occupata. Dunque, noi oggi dobbiamo parlare... Devi spegnere il cellulare, se no fa interferenza, no? Con i nostri microfoni. L'ho chiuso. E chiudiamo anche noi questa piccola simulazione di cosa oggi non di rado accade quando più sorgenti di segnali arrivano nello stesso momento, contemporaneamente alla nostra mente. Direi che questo però non accade, no Barbara, quando si va in onda in una radio, lì stiamo abbastanza attenti, però in una normale conversazione, situazione di lavoro, questo oggi accade. E di questo tipo di cose che vogliamo parlare stasera, no? Insieme. Sì, perché accade veramente spessissimo e succedono anche molti disastri, non solo cene bruciate e bambini dimenticati all'asilo, ma ci sono persone che hanno dimenticato di leggere la mail con l'occasione di lavoro della loro vita e cose di questo tipo qui. E comunque, oltre a fare disastri domestici, sappiate che il multitask è qualcosa che il vostro cervello non gradisce affatto. Multitask, hai detto? Sì, questa abitudine, insomma, di fare molte cose in parallelo. Più compiti, no? Task dall'inglese sono compiti, esatto, no? Esatto. Più cose allora, in parallelo, sì. Ecco, cosa succede nel nostro cervello? Sembra che ci sia un doloroso braccio di ferro fra la parte di corteccia che ci spingerebbe a concentrarci su quello che facciamo, a riflettere, mm-hmm. e un'altra parte del cervello che ci dice: attenzione, arrivano degli stimoli esterni, bisogna concentrarsi su quelli perché forse potrebbe esserci un pericolo in arrivo, è qualcosa di molto antico nel nostro cervello. E il problema è che alla lunga, se diamo sempre retta agli input esterni, agli stimoli esterni, in qualche modo sembra che perdiamo la capacità di concentrarci sui problemi quando veramente dovremmo farlo. Ecco, di questo potremmo parlarne con Alberto Oliverio, che è professore di psicobiologia all'Università Sapienza di Roma. E che è qui con noi questa sera. Buonasera, Oliverio. Buonasera a voi. Allora, buonasera. Di questo multitasking, che cosa ci dice? Ci ragionate sopra? Sì. Un argomento che, come dire, caldo, nel senso che soprattutto negli ultimi tempi si cerca di favorire il multitasking nelle aziende, nelle imprese, persino a casa. L'idea è che uno potrebbe fare varie cose simultaneamente. Ora, è vero che alcune cose semplici si possono fare, per esempio, che ne so, se siamo in palestra possiamo, o a casa, andare sulla bicicletta e leggere un libro o guardare il televisore. Queste sono attività diverse che non competono molto tra di loro, una è motoria, l'altra è cognitiva, prestare attenzione ad uno scritto, ad uno schermo. Possono stare insieme? Possono stare insieme, senz'altro. Invece è più difficile fare stare insieme delle cose che competono, sia con un canale sensoriale simile, ad esempio ascoltare su due orecchie due messaggi diversi. E in genere noi tendiamo a prestare più attenzione all'orecchio destro, dove in genere teniamo il telefono, perché i messaggi verbali dall'orecchio destro vengono convogliati dritti all'emisfero sinistro. Ma se ci arriva anche un messaggio all'orecchio sinistro possiamo entrare in tilt, quanto ci succede ad esempio durante una telefonata quando ci dicono qualche altra cosa. Percepiamo un messaggio semplice, ma in genere stiamo perdendo un po' di efficienza nell'orecchio che percepisce il messaggio più rilevante. E poi naturalmente ci sono anche delle tentativi di operare dei multitasking cognitivi, per esempio, ecco, non so, parlare al telefono, continuare a rispondere ad una mail, al computer, pulsare un giornale online. Questo in qualche misura è possibile farlo, però i risultati di tanti studi ci dicono che questo avviene a scapito dell'attenzione e un po' della qualità delle prestazioni. Si fanno molti errori, su questo esistono tanti rapporti, forse il più completo è quello, uno studio complesso che ha fatto la US Army, l'esercito americano, per vedere se era possibile fare un multitask. In realtà le risposte sono abbastanza negative, pur tenendo presente che ci sono delle forti differenze individuali, ci sono persone che riescono a gestire un po' meglio due compiti simultaneamente e persone che invece sono meno propense. C'è anche una differenza di genere, le donne sono più propense al multitasking, gli uomini un po' meno. Faccio un esempio banale che magari non è più adatto ai tempi, ma insomma nelle faccende di cucina, per esempio, una donna fa vari compiti simultaneamente, un uomo tende ad essere un po' più ossessivo e sistematico. Ecco, ma in qualche modo se ne esce da questa dipendenza da multitasking, che peraltro è anche molto volontaria. In genere le persone non fanno multitasking perché lavorano, ma anche perché vogliono guardare lo smartphone, perché siamo ormai abituati a questo. Siamo abituati, siamo attratti da molti stimoli, però bisogna stare attenti. Per esempio, un esempio classico di multitasking che può essere duramente penalizzato è quello di parlare al telefonino, mandare messaggetti mentre si guida. Ecco, lì la perdita dell'attenzione è notevole e quando i tempi di reazione sono fondamentali, frenare la macchina se si presenta un ostacolo improvviso, lì le conseguenze possono essere catastrofiche. In altri casi invece si possono tollerare degli errori, però in genere se ci fate attenzione, insomma, se non so, rispondete al telefono intanto guardate la posta, perdete in selettività nel recepire il messaggio telefonico. In conclusione, da questo tipo di ricerche viene fuori qualcosa che è un po' in controtendenza a quanto si tende a immaginare, cioè che fare più cose contemporaneamente non è che è un segno di grande qualità sul lavoro, insomma si rende di fatto meno. Direi di sì, tutto sommato, anche se si vorrebbero bruciare i tempi, e questo fa parte un po' di una mentalità così contemporanea, a volte anche aziendalistica, eccetera, in realtà è meglio fare una cosa per volta piuttosto che farne varie simultaneamente. Certo, se i compiti sono molto semplici, come dicevo, oppure non interferiscono tra di loro, è possibile fare un computo motorio ed uno cognitivo. Quando i compiti tanto più si rassomigliano, diciamo, tanto più si perde in efficienza e selettività. E in qualità. Bene, grazie Alberto Oliverio e arrivederci. Arrivederci grazie Oliverio. A voi, arrivederci. Buona serata. Occhio quindi a smanettare con il cellulare quando si guida. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Vi faccio risentire il suono un pochino. Eccolo qua. Vi avevo detto una roba tremenda, l'ospide reale, una specie di tacchino delle Ande, una roba che ci siamo inventati qua due minuti prima di andare in onda, non è nemmeno una centrifuga per usi biomedicali, si tratta del gibbone crestato e quindi di una scimmia. Ed ora parliamo di posidonia. Sono piante, ma sono vegetali marini. Come sono fatte? Beh, quante volte vi è capitato in riva al mare di vedere quelle strisce nere, larghe, circa un centimetro lunghe? Eccole lì, sono le posidonie, sono le foglie delle posidonie. Chiara Albicocco ora vi racconta come le posidonie possono anche diventare, in un certo senso, piante per l'agricoltura terrestre. L'estate sta finendo e chissà quanti di noi avranno negli occhi la spiaggia, la sabbia calda e il mare cristallino. E forse qualcuno anche le alghe e i residui vegetali lasciati dalle onde sulla battigia. Bene, ora archiviamo la malinconia da rientro e rimettiamoci faticosamente al lavoro. Cercando in questi giorni argomenti e notizie da raccontarvi, abbiamo trovato un tema che ci riporta un pochino sulle spiagge, ma ci permette anche di riferire un progetto ecosostenibile e amico dell'ambiente. Si tratta di Prime e prevede il riutilizzo della posidonia spiaggiata come fertilizzante per l'agricoltura. Ci spiega tutto su questo importante progetto del CNR di Bari, Angelo Parente, dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari. Buonasera Parente. Buonasera a tutti e grazie dell'invito innanzitutto. Forse è il caso di iniziare a spiegare che cos'è la posidonia. Qualcuno erroneamente pensa che sia un'alga. No, infatti non è così. La posidonia è una pianta superiore e quindi come tale presenta tutte le caratteristiche delle piante che comunemente conosciamo, pensiamo ad una pianta d'appartamento. L'unica differenza è che è adattata a vivere in ambiente marino. Quindi scusi, radici, fusto, foglie, no? Perfettamente, presenta delle radici che tra l'altro contribuiscono a limitare l'erosione dei fondali marini, presenta un rizoma che è l'organo di propagazione vegetativo, presenta un fusto, presenta delle foglie, può anche fiorire e in alcune condizioni anche produrre dei frutti. È una pianta endemica del Mediterraneo, quindi la si ritrova esclusivamente nel Mediterraneo, con alcuni centri in altre zone, diciamo, di specie simili. Ad esempio ci sono delle praterie di Posidonia in Australia, però in questo caso si tratta di Posidonia australis. E appunto dicevo, proprio per essere una pianta superiore, svolge quelle che sono le funzioni tipiche delle piante superiori, cioè la fotosintesi, e a questo è legato uno degli aspetti diciamo fondamentali dell'importanza della pianta nel mare, cioè la produzione di ossigeno. Consideriamo che un metro quadro di prateria di Posidonia arriva a produrre fino a 14 litri di ossigeno al giorno. Quindi è molto importante nell'ecosistema marino, però diciamo che soprattutto in questi ultimi periodi ha qualche difficoltà, cioè sembrerebbe una specie da proteggere, no? È una specie protetta, proprio come conseguenza di questo ruolo fondamentale nell'ecosistema. Per cui diciamo, nonostante ci sia una certa regressione delle praterie di Posidonia, comunque è una specie protetta che va appunto salvaguardata. Diciamo, e proprio alla sua funzione, alla sua origine diciamo, di pianta superiore, sono legati i fenomeni di spiaggiamento, cioè è una pianta che, come quelle che conosciamo, periodicamente diciamo, le sue foglie perde le foglie. Esatto, invecchiano e quindi si distaccano dalla pianta madre. E come effetto del moto ondoso si accumulano lungo le coste formando dei tipici cumuli che vengono denominati banchette. Ecco, è per questo che noi probabilmente ognuno di noi l'ha vista sulle spiagge, perché sono quei filamenti scuri che si accumulano appunto sulla battigia, soprattutto in alcuni periodi specifici dell'anno, cioè quando perde le foglie. Esattamente, diciamo che noi ce ne accorgiamo soprattutto all'inizio dell'estate, quando cominciamo a frequentare in misura maggiore le spiagge diciamo per farci il bagno, ma diciamo un po' lungo tutto l'arco dell'anno diciamo come effetto delle mareggiate si hanno questi accumuli di residui di posidonia che ovviamente diciamo se da un lato in qualche modo tendono a proteggere la costa dall'erosione, al tempo stesso possono rappresentare un problema per i comuni costieri. Sì, ecco, diciamo dal punto di vista estetico. E quindi adesso i comuni e comunque coloro che gestiscono le spiagge la smaltiscono banalmente in discarica. Invece c'è questo progetto che ha lo scopo di sfruttare questa grossa risorsa, sembrerebbe, parente. Ovviamente laddove una spiaggia ha una valenza turistica oppure gli spiaggiamenti avvengono in prossimità dei centri abitati, ovviamente c'è un problema legato alla fruizione delle spiagge o eventualmente appunto ai cattivi odori che possono essere emessi da questi cumuli di residui organici. Per cui molto spesso i comuni devono intervenire allontanando, per raccogliere e allontanare questi residui, e diciamo attualmente l'unica destinazione che hanno è la discarica. E questo rappresenta un grosso problema, dati gli oneri economici che questi comuni devono sopportare. Consideriamo che una tonnellata di residuo di Posidonia può arrivare diciamo a costare in termini di smaltimento in discarica anche fino a 60, 70, 80 euro appunto per tonnellata. Mentre invece potrebbe essere sfruttata in un altro modo. Esattamente. potrebbe essere recuperata, e questo progetto LIFE riguarda proprio la gestione integrata dei residui ed ecocompatibili dei residui di Posidonia. Diciamo che si articola fondamentalmente, per semplificare, in due tronconi. Da un lato c'è l'ottimizzazione della metodologia di raccolta al fine di ridurre l'impatto che la raccolta stessa può avere sulla costa, in termini per esempio di mezzi che devono andare sulla costa. Certo, cercare di smaltirla il prima possibile e il più velocemente possibile. Esattamente. Mm-hmm. E poi cosa ci facciamo? Ecco, dopodiché noi diciamo non portiamola assolutamente in discarica, ma è possibile rimettere questo materiale nel ciclo produttivo, quindi riutilizzarlo previo una manipolazione anche tutto sommato abbastanza semplice, che è quella appunto del compostaggio, cioè miscelata con altre matrici organiche e manipolata in un determinato modo, consente di ottenere un prodotto, un compost appunto. La possiamo usare come concime per l'agricoltura? Esatto, come ammendante sul terreno, quindi una sostanza che incrementa la sostanza organica del terreno, notoriamente i nostri terreni sono poveri di sostanza organica, oppure può essere utilizzato come substrato di coltivazione. Pensiamo per esempio alle nostre piante di appartamento, mm-hmm. in quel vaso ci può andare un compost ottenuto appunto dalla Posidonia. Una specie di humus. Esattamente, una specie di humus. In questo progetto, che ha la durata di 3 anni e che appunto è cofinanziato dall'Unione Europea, sono coinvolti 5 partner. C'è una municipalità che è il comune di Mole di Bari, cioè il mio istituto, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, c'è una società barese ecologica che si occupa un po' del coordinamento del progetto, c'è un'azienda Aseco che si occuperà appunto del compostaggio vero e proprio, e poi c'è un'altra azienda che si occuperà invece della messa a punto del prototipo idoneo per appunto una raccolta ecocompatibile, diciamo, dei residui di Posidonia. Dunque, per sapere un po' di risultati ci dobbiamo sentire l'estate prossima. Esattamente. Va bene, allora ci risentiamo di sicuro, ci fa sapere com'è andato il primo anno di progetto. Senz'altro, con molto piacere. Grazie mille, buon lavoro. Grazie altrettanto a voi. Quando si parla di fotovoltaico c'è naturalmente molto interesse di questi tempi, però si tende anche a sottolineare che insomma non ci siamo ancora, ma io ho la sensazione che in questo campo ogni giorno che passa vede un avanzamento singolare e imprevisto, e voglio parlare di questo con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao ciao. La nostra corrispondente agli Stati Uniti, da Boston. Tu stai al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, e noi parliamo proprio di fotovoltaico, che ha a che fare col MIT, con due ricerche che effettivamente hanno molti elementi sorprendenti. Di che cosa si tratta? Parliamo di celle fotovoltaiche che si autoriparano e di imbuti solari. In realtà lo stesso gruppo di ricerca che è giunto a questi risultati, un gruppo che è capitanato da un professore di ingegneria chimica, Michael Strano. È una ricerca finanziata non solo dal MIT, ma da un progetto congiunto di MIT e ENI. Ah, l'ENI, la nostra ENI. C'è un po' d'Italia in questo progetto, un po' tanto anzi. Allora, perché ci servono delle celle fotovoltaiche che si autoriparano? Già. Quello che succede è che la radiazione solare fa degradare i sistemi, le strutture che vengono usate per catturarla. Alcuni sistemi si riducono addirittura al 10% dell'efficienza iniziale nel giro di 60 ore. Tantissimo. E in realtà le piante hanno già una soluzione. All'interno dei cloroplasti, che dove avviene la fotosintesi, continuano a rompere e riassemblare le molecole che catturano l'energia solare. Ogni ora sono delle celle dinamicissime. Ed è questo che ha ispirato la ricerca. Per cui il gruppo di Strano, il professor Strano, ha costruito delle strutture che fanno lo stesso. Sono un materiale che è misto di molecole sintetiche e nanotubi, e questo materiale si assembla e disassembla continuamente, per cui ogni volta ci sono delle celle nuove. I nanotubi sono effettivamente delle strutture molto strane. C'è chi dice che appunto sono una via di mezzo, per carità, no, sono artificiali, no? Ma il loro comportamento è una via di mezzo tra ciò che è vitale e ciò che è artificiale, e qui viene fuori. Beh, qui quello che succede in realtà è che il materiale che assorbe l'energia solare è costituito da 7 componenti. Quando viene aggiunto un surfattante, una cosa che la struttura come la struttura del sapone, queste componenti si disassemblano e rimane una soluzione saponosa. Ho capito. per riassemblare le componenti, quello che fanno, spingono questa soluzione attraverso una membrana, per cui la parte, diciamo, di sapone, di surfattante rimane da un lato, gli altri composti rimangono dall'altro e si rimettono insieme, si riassemblano. Sì, non è banalissimo spiegarlo, cioè, ci ha dato un po', diciamo, la sensazione abbastanza precisa come sensazione di quello che avviene, il dato di fondo che appunto si rimettono a posto. Esatto, adesso stanno lavorando per migliorare l'efficienza. Oh, non ci sono solo queste, c'è anche? L'imbuto solare. In realtà non è un imbuto, ma si tratta dei filamenti di alcune antenne che sono costituite ancora una volta da nanotubi. Ogni antenna è costituita da 30 milioni di nanotubi, però ha un diametro che è un milionesimo di metro, per cui stiamo parlando di dimensioni veramente minuscole. E l'idea è che sono in grado di concentrare l'energia solare, così invece di avere dei pannelli solari che ricoprono i tetti di questo edificio, si possono avere dei pannelli solari più piccoli. Scusa Paola, voglio capire bene, qui ci sono delle antenne che raccolgono la radiazione solare e poi la trasmettono a delle celle fotovoltaiche, ma quindi non c'è più bisogno di superfici estese? Esatto, e questo è proprio lo scopo della ricerca. Per ora hanno costruito le antenne, non le hanno ancora accoppiate con le celle fotovoltaiche, però poi l'idea è di creare questi sistemi di produzione elettrica dal solare che occupano molto meno spazio e saranno anche meno costosi. Grazie Paola, ciao, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Tutto, vi abbiamo detto tutto, non tutto in generale, ovviamente, quello che avevamo da dirvi in questa puntata. Ci sarà ancora molto da raccontarvi. Cosa si dice nella nostra sigla di Möbius? Si dice in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana.